get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera e ben sintonizzate. Siamo di nuovo qui a farci, diciamo così, reciproca compagnia. Allora, questa sera, tanto per incominciare, inizierete con la trasmissione numero 201 ed oggi in studio siamo Rosina e io, che sono Lucilla. Buonasera. E a farci da tecnica è la splendida Mara, che è rimasta con noi, meno male, perché... Come al solito non eravamo in grado di... Esatto. Partiamo un pochino in ritardo, ma avete sentito la trasmissione che ci ha preceduto ed è stata molto molto molto interessante. Per quello che riguarda l'argomento di questa trasmissione, sarà sull'ultima ricerca Istat circa la violenza domestica. Per realizzarla abbiamo consultato i dati provenienti dalla ricerca ed altro materiale che vi leggeremo durante la trasmissione. Non è la prima volta, tanto per incominciare, che noi parliamo di violenza domestica e purtroppo, diciamo noi, non sarà neanche l'ultima. Vi ricordate la trasmissione 157, quella del 2005? Allora consultammo i dati dell'Eures del 2004 e documenti di dimensione donna. E poi, fra gli altri, partimmo da una riflessione di Lea Melandri, un articolo che era uscito di Lea. Allora, i dati attuali non sono migliori di quelli del 2004. Ora, come allora, vogliamo rompere questo che noi definiamo un silenzio assordante sulla violenza domestica, a fronte invece della mistica sulla famiglia voluta dal patriarcato in tutte le forme in cui si manifesta. Una, per dirne una, è il Vaticano, una delle forme del patriarcato, ma anche il governo è una forma patriarcale, e vediamo come si comporta, no? Con le donne. Allora, vi ricordiamo che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di SMS al numero di cellulare che è 338-41-46-682. Vista l'entità dell'argomento, ci rendiamo conto che forse un messaggio potrebbe essere troppo sintetico e allora vi ricordiamo che potete scriverci indirizzando la vostra mail a contatti@clrbp.it. Oppure scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B 00 165 Roma. E se volete, noi ci troviamo ogni giovedì presso il Centro Femminista Separatista dalle 20:30 in poi, potete venirci a trovare in via San Francesco di Sales, sempre 1B. Adesso ci ascoltiamo prima un brano di Gianna Nannini dal titolo Notti senza cuore. E Mara si sta pugnalando. L'ha scelto Lucilla, ci tengo a dirlo. L'ho scelto io. Le musiche le ho scelte io, sono giurassica, scelgo un po' di musiche così e non gli do molta importanza. Mi rendo conto che è un limite, però ci potete scrivere e consigliarci pezzi musicali che possiamo mandare in onda. E poi partiremo con la nostra ricerca. Vai. Così che passa in fretta questa dolce malattia, mi butterei da quella stella spenta di malinconia in questa urgenza di vivere e furia di sentire, so desistere. Notti senza cuore, da non aver pietà, uscita che trascina via di qui. È stata una battaglia persa, niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV. Gli occhi sopra le nuvole, aspettando la luce di un'alba atomica. Notti senza cuore, da non aver pietà, a parlare agli angeli lassù, qualcuno sentirà. Notti senza nome, da far tremare il cielo, dove c'è una via di uscita che trascina via di qui, in un volo bellissimo, in un mare bellissimo, mi sembra bellissimo, in un mare bellissimo. Notti senza cuore, notti da coprire il cielo con cartoni. E allora ritorniamo a noi. Secondo i dati di questa ricerca Istat, in Italia sono circa 14 milioni le donne fra i 16 e i 70 anni che hanno subito un qualche tipo di violenza nel corso della propria vita, anche reiterata e perpetrata ai loro danni dal partner, dall'ex partner oppure da un estraneo. Nel 70% circa di questi casi le violenze sono opera del partner e la grandissima maggioranza, cioè oltre il 90%, non è mai stata denunciata. Negli ultimi 12 mesi nel nostro paese le donne vittime di violenza sono state 1.150.000. Secondo l'Istat un terzo delle vittime subisce violenza fisica, sessuale e psicologica, quindi strattonamenti, schiaffi, pugni, calci, tentati stupri, aggressioni verbali, richieste sessuali degradanti, tentativo di isolamento, controllo, violenza economica, svalorizzazione e intimidazioni. Chi più ne ha più ne metta. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la violenza domestica è un fenomeno molto diffuso che riguarda ogni forma di abuso psicologico, fisico, sessuale e le varie forme di comportamenti coercitivi esercitati per controllare emotivamente una persona che fa parte del nucleo familiare. Questo tipo di violenza può portare gravi conseguenze nella vita psichica delle donne, degli uomini e dei bambini che la subiscono, perché può fare sviluppare problemi psicologici come sindromi depressive, problemi somatici come tachicardia, sintomi di ansia, tensione, sensi di colpa e vergogna, bassa autostima, disturbi post-traumatici da stress e molti altri ancora. Le condizioni di chi subisce la violenza sono tanto più gravi quanto più la violenza si protrae nel tempo o quanto più esiste un legame consanguineo tra l'aggressore e la vittima. Dal punto di vista fisico, le violenze domestiche possono generare gravi danni permanenti e portare difficoltà nel sonno o nella respirazione. Le conseguenze della violenza domestica protratta nel tempo lasciano segni anche sul piano relazionale, perché le vittime che la subiscono spesso perdono il lavoro, la casa, gli amici, le risorse economiche di sostentamento. Non è possibile, abbiamo detto, sapere il numero esatto delle donne che hanno subito queste terribili esperienze, perché questi sono dati relativi soltanto al numero esiguo di donne che hanno denunciato i fatti alle autorità. Si è stimato, appunto, che oltre il 90% delle vittime non denuncia il fatto. Precisamente si è stimato che le donne che hanno subito una violenza da un non partner senza denunciare il fatto sono state il 96%, mentre il 93% è la percentuale di donne che non ha denunciato la violenza subita dal partner. Ach, das will ich so nicht mehr. never fall and dim to the pier. Allora, torniamo all'approccio di salute pubblica relativamente alla violenza adottato dall'OMS e quindi quali sono le caratteristiche principali, una sintesi di quali sono le caratteristiche, di quali siano le caratteristiche principali. Allora, tanto per incominciare, la violenza è un problema di salute pubblica. Essa va affrontata secondo un approccio interdisciplinare e scientifico che includa e integri la medicina, l'epidemiologia, la sociologia, la psicologia, la criminologia, l'educazione e l'economia. Perché, ricordiamoci, ha un costo, cioè la violenza domestica ha un costo sociale altissimo. Questo approccio comporta l'applicazione di un metodo scientifico basato su requisiti rigorosi. Al primo posto, studiare il fenomeno in tutti i suoi aspetti tramite la raccolta dei dati sulla sua dimensione, le caratteristiche e le conseguenze sulla vita degli individui e la società. Poi, investigare il perché la violenza si verifichi per determinare le cause e le correlazioni della violenza stessa, i fattori che ne aumentano o riducono il rischio, i fattori che possono modificare il fenomeno attraverso l'assunzione di interventi specifici e poi ancora sperimentare strategie di prevenzione usando le informazioni che derivano dalla progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle misure dei programmi già adottati. E infine, valorizzare e promuovere gli interventi che hanno dimostrato maggiore efficacia, disseminare le informazioni e adottare sistemi standardizzati di valutazione dell'impatto degli interventi. Questo per quello che riguarda l'approccio adottato dall'OMS. In particolare, in relazione alla violenza da parte del partner, l'OMS individua la violenza da partner del partner, quindi, è riconosciuta essere una forma di abuso ricorrente e trasversale a tutte le comunità umane, a prescindere dalla cultura di riferimento e dalle condizioni socio-economiche della popolazione. Questo tanto per abbattere un pregiudizio che dice che la violenza domestica e la violenza sulle donne sia in particolare in uso in ambienti degradati o socialmente bassi, e invece non è così. Essa comprende forme di maltrattamento economico, psicologico, fisico e sessuale. L'OMS afferma che la maggior parte degli atti violenti vedono una donna nel ruolo di vittima e un soggetto di sesso maschile in quello di aggressore. L'analisi di 48 indagini campionarie realizzate in vari paesi del mondo rivela che in alcuni casi si arriva fino a percentuali pari al 69% del campione di donne intervistate che riporta di essere stata vittima di violenza da parte del partner almeno una volta nella vita. Poi, se questa volta nella vita dura tanti anni, capite voi, no? La maggior parte delle vittime subisce più forme di violenza. Per esempio, uno studio condotto in Giappone su un campione di ben 613 donne ha calcolato che meno del 10% era stato vittima solo di maltrattamento fisico, mentre ben il 57% aveva sofferto forme multiple di violenza, in specifico maltrattamento fisico, psicologico e abuso sessuale in età minore. È molto alta la percentuale di donne che mantiene il segreto sulla violenza domestica di cui è vittima, una situazione che anche nelle statistiche rese disponibili dall'OMS si rivela come una situazione che tende a cronicizzarsi e ad aggravarsi nel tempo in assenza di interventi di protezione. In uno studio condotto invece in Gran Bretagna su un campione di 430 donne, il 38% delle vittime di maltrattamento fisico da parte del partner non aveva mai parlato con alcuno, il 46% si era confidata con amici, il 31% con familiari e solo il 22% aveva segnalato la violenza alla polizia. La bassa incidenza delle denunce è un dato ricorrente a livello mondiale. L'Australia segnala in media solo il 19% delle donne, in Canada solo il 26%, in Cile il 16%, nella Repubblica di Moldavia, il 6%. Si chiude nel silenzio il 68% delle donne del Bangladesh e il 47% delle donne egiziane, quindi mi sembra un fenomeno di portata mondiale. Le conseguenze della violenza sono estremamente gravi: danni a livello fisico, difficoltà relazionali, disturbi psicologici, invalidità permanenti, sino alla morte. La violenza domestica causa gravi danni anche sulla salute riproduttiva delle donne. Studi fatti in Australia, Canada, Israele, Sudafrica e Stati Uniti dimostrano che tra il 40 e il 70% degli omicidi con vittime adulte di sesso femminile sono avvenuti per mano del partner, molto spesso all'interno di una relazione di tipo abusivo, contro il 4% di omicidi maschili effettuati da donne, partner o ex partner. Gravi sono gli effetti anche sui minori esposti ad assistere alla violenza sulla madre da parte del padre o del convivente della donna. La witnessing violence, non so come si pronuncia, mi puoi aiutare, Carina? Credo witnessing violence, credo. Ecco, crede lei. È un fenomeno grave e diffuso, ma scarsamente rilevato, colludendo così con il perpetuarsi del ciclo intergenerazionale della violenza. Ricerche svolte in Brasile, Cambogia, Canada, Cile, Colombia, USA, Spagna, Nicaragua, eccetera, eccetera, hanno mostrato tassi più alti di violenza domestica tra le donne i cui mariti erano stati essi stessi o bambini maltrattati o bambini esposti alla violenza sulla propria madre. Ma noi non ce ne frega niente del fatto che fossero stati esposti. Allora, per quanto riguarda invece nello specifico la violenza sessuale, in questa categoria l'Organizzazione Mondiale della Sanità include una vasta gamma di atti che vanno dallo stupro alla violenza sessuale all'interno della coppia, fino all'abuso sessuale e allo sfruttamento nella prostituzione. I dati disponibili dimostrano che a seconda del campione di popolazione sul quale sono realizzati gli studi, da una a quattro donne riporta di avere subito violenza sessuale da parte del partner. Il 23% delle donne residenti in North London, hai sentito che pronuncia? Sì, intervistate sentito. Nell'ambito di una indagine sulla vittimizzazione, rispose di avere subito un tentato stupro o uno stupro nel corso della sua vita. Stando a quello che oggi si conosce sullo sfruttamento sessuale ai fini commerciali, sarebbero centinaia di migliaia le donne e le bambine vittime della tratta per lo sfruttamento e la riduzione in schiavitù nel mercato della prostituzione, oppure esposte e vittime di violenza in ambiente scolastico, sul luogo di lavoro, in strutture sanitarie e centri di accoglienza. Dove vai, vai, c'è sempre una garanzia. La violenza sessuale produce drammatiche conseguenze a breve e a lungo termine sulla salute fisica e mentale delle vittime, genera danni fisici sulla salute riproduttiva, accresce il rischio di suicidio e di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. A livello mondiale le violenze sessuali denunciate sono solo la piccola punta di un iceberg la cui parte sommersa rimane difficilmente stimabile. La violenza domestica di tipo non sessuale si associa costantemente ad atti anche di violenza sessuale, che sovente le donne faticano a riconoscere come tali perché avvengono appunto all'interno di un legame affettivo legalmente riconosciuto. Tanto per dire la famiglia, no? In Messico e negli Stati Uniti tra il 40 e il 52% delle donne vittime di violenza domestica è stato anche vittima di violenza sessuale o costretto a rapporti sessuali a cui ha consentito dietro forti pressioni e coercizioni da parte del partner. Infatti le donne che subiscono la violenza all'interno della propria casa, quindi all'interno della propria famiglia, sono spesso multivittimizzate, cioè subiscono non soltanto la violenza di tipo sessuale specifico, ma subiscono anche tutta un'altra serie di atti coercitivi, di maltrattamenti e di abusi di altro livello. Esistono ricerche che sembrano confermare l'esistenza di un forte collegamento tra abuso in età minore e violenze sessuali subite in età adulta. Da uno studio nazionale realizzato negli Stati Uniti è emerso che le donne vittime di stupro prima dei 18 anni avevano una probabilità doppia di rimanere vittime di stupro anche in età adulta, una volta confrontate con un campione di donne che non aveva subito abuso nell'infanzia, quindi c'era una percentuale di circa il 18 contro il 9%. E adesso un pezzo musicale. Vittori, vittori tu battanaria da noi, amavimo i vittori, e vittori tu battanaria da noi, e ai moi tada. Riparto? Ok. Allora, adesso, dopo questa parte, diciamo, in cui abbiamo fornito i dati dell'Istat, che sono veramente freschi, anche se non è che si discostino poi così tanto dai dati Eures del 2004, ci interessa portare alla vostra conoscenza altre cose che abbiamo trovato, quello di cui vi dicevamo all'inizio. E c'è un sito che si chiama Femminismo a Sud, dove noi abbiamo trovato delle cose interessanti circa la violenza sessuale e soprattutto come viene perpetrata dai maschi, dagli uomini, dai partner, eccetera, ma che radici hanno all'interno della nostra legislazione, quindi che beneplacito hanno a livello della legge italiana, questo volevamo dirvi. E quindi, se volete, poi potete andarvi a consultare Femminismo a Sud, va bene? La discussione che determina l'approvazione di una legge ha un impatto dal punto di vista culturale che, rispetto alle questioni di genere, in tanti anni è stata davvero fondamentale. La difficoltà di acquisire diritti che ci vengono riconosciuti solo attraverso l'applicazione di leggi esistenti, anche sulla carta, è una cosa con la quale ci scontriamo molto. Prima dell'attuale codice penale c'era e c'è ancora, nelle parti non modificate, in vigore il codice Rocco, elaborato e promulgato in pieno regime fascista. La parte più difficile da modificare, a cui i giuristi erano attaccati per tradizione, era, lo è sempre, quella dei diritti individuali. Tra questi un particolare interesse veniva destinato al mantenimento del sistema familiare patriarcale fascista in cui la donna era, o è, sposa e madre esemplare, creatura soggetta ed obbediente al suo destino biologico, alla funzione riproduttiva esaltata come missione per il bene della patria e cioè del regime. A quell'epoca esisteva la figura del capo famiglia che derivava in qualche modo da quella del pater familias dell'antica Roma. Per il codice penale i reati di violenza sessuale e incesto erano rispettivamente parte dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, divisi in delitti contro la libertà sessuale e offese al pudore e all'onore sessuale, e dei delitti contro la morale familiare, e non ci pare che il secondo sia cambiato. Così, mentre si affermava che la violenza sessuale non offendeva principalmente la persona, coartandola nella sua libertà, ma ledeva una generica moralità pubblica, si dimostrava che il bene che si voleva proteggere e tutelare non era tanto la persona, quanto il buon costume sociale secondo il quale la donna non era libera di disporre di alcuna libertà nel campo sessuale. Nella legge così com'era si trovava la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine. Spesso molti processi si risolvevano in una ricerca minuziosa del livello di verginità anatomica violata. Questo perché, cosa infide certamente non comprensibile per noi adesso, si faceva una distinzione tra congiunzione corporale e atti di libidine. Ed era chiamata libidine violenta. Libidine violenta. Ed era la Cassazione che con sentenze strabilianti definiva al centimetro di quanto doveva essere profonda la penetrazione perché fosse riconosciuto il reato di violenza carnale. Se il pene penetrava anche solo un tot sufficiente a consentirgli di riversare lo sperma dentro la vagina, allora era considerato un rapporto completo. Se invece non c'era versamento spermatico o penetrazione, ma solo un semplice contatto, anche intimo, offensivo, umiliante, molesto, tanto da determinare nel molestatore un piacere equivalente al coito, non veniva considerato congiunzione. E questo la dice lunga. Se non c'era congiunzione, non veniva riconosciuto il reato, oppure cambiava l'entità della pena. Tutto ciò ovviamente senza parlare dell'effetto che un processo di quel tipo poteva avere sulle persone stuprate, sulle donne stuprate. Altro reato contro la morale era il ratto a fine di matrimonio e il ratto a fine di libidine. E qui sentite perché la cosa si fa veramente interessante. Entrambi gli articoli del codice penale abrogati con la legge sullo stupro solo nel 1996, cioè 10 anni fa, l'altro ieri appunto, ecco, il codice distingueva il ratto a seconda del fine che il rapitore si proponeva e puniva meno gravemente chi rapiva a scopo di matrimonio, che era definito appunto matrimonio riparatore, norma abrogata, badate bene, nel 1981, cioè l'altro ieri, e più gravemente chi rapiva a fini di libidine, ritenendo evidentemente che, e sentite bene, che privare della libertà una donna e coartarne la volontà allo scopo di sposarla fosse meno grave, cioè 30 anni di galera so di meno, quella cioè per tutta la vita. Quindi cioè la donna veniva considerata alla stessa stregua di un oggetto che chiunque poteva rompere purché poi si assumesse l'onere di raccoglierne i pezzi. E si poteva dire forse che il ratto a scopo di matrimonio era la parte peggiore, perché mentre nel ratto a scopo di libidine la donna poi poteva fare la propria vita, in quello a scopo di matrimonio invece doveva restare in quanto merce avariata e non più proponibile, senza più nessuna possibilità di scelta per tutta la vita. Quindi capite il paragone di prima, meglio 30 anni di galera. L'assurdità del matrimonio riparatore fu rivelata per la prima volta nel lontano 1965 dal coraggioso gesto di una ragazza siciliana, Franca Viola. È bene ricordare Franca Viola perché è stata un'antesignana e ha aperto una strada importante per tutte le donne. Rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, Franca, che aveva allora 18 anni, rifiutò le nozze riparatrici e denunciò il suo rapitore, tale Filippo Melodia, in odor di mafia, e i suoi complici. Malgrado le intimidazioni e le difficoltà opposte dall'ambiente sociale, Franca Viola non tornò indietro. Il processo contro Filippo Melodia e i suoi 12 complici si concluse nel dicembre del 1966 con una condanna ad 11 anni per lui, 5 assoluzioni e pene minori per gli altri. E questo per dovere di cronaca, il caro Filippo Melodia anni dopo è stato ucciso dalla mafia perché evidentemente aveva fatto qualche sgarbo. Quindi immaginate che a quale soggettino si sarebbe dovuta legare la povera Franca Viola. Tornando al codice, va notato che nel ratto a fine di libidine era prevista un'aggravante se il reato era commesso nei confronti di donna legalmente sposata. Udite, udite, la tendenza era quella di tutelare l'oggetto moglie, la proprietà del marito, e qui ancora diventa evidente come nel codice era rappresentata la concezione dell'inferiorità della donna. La legge contro la violenza sessuale ha avuto un iter parlamentare lungo e travagliato, direi anche periglioso, durato solo un ventennio. Vi ricorda qualcosa, ventennio? In occasione del processo per i fatti del Circeo, il movimento femminista impose di considerare i reati a sfondo sessuale in tutta la loro gravità. La prima proposta di legge, che fu del PC di allora, fu accolta nel 1977, e alle altre si unì anche la famosa e importante legge di iniziativa popolare con accluse 300.000 firme da parte del movimento delle donne, ma la legge fu definitivamente approvata solo nel 1996, quindi 20 anni dopo. La storia però non finisce qui. Giusto per dire che non bisogna mai stare tranquille e che le leggi vanno e vengono senza che nulla possa mai darsi per scontato, nel corso degli anni la Cassazione ha stabilito, laddove il codice penale non era sufficientemente chiaro e consentiva un'interpretazione discrezionale del giudice, numerose forme di lettura della legge e del reato di stupro. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo musicale che la grande Mara manderà e poi vi leggeremo alcune sentenze. Allora, come dicevamo, i simpatici ermellini, giudici della Cassazione, hanno dato delle belle interpretazioni nel corso della prima. La prima è veramente eccezionale. Io credo che ci possiate mandare dei messaggi per dirci quanto vi è piaciuta questa sentenza e quanto la approvate, per esempio. Una sì, molto interessante. Risale all'aprile del 1994, quindi sono passati 13 anni. Secondo i giudici della Cassazione, è arduo ipotizzare una violenza sessuale fra coniugi in caso di coito orale, in quanto la donna avrebbe potuto in ogni caso facilmente reagire e sottrarsi al compimento dell'atto da lei non voluto, e cioè mordere ferocemente il pene stupratore. Evidentemente sì, quindi diteci voi se vi sembra... Lorena Bobbitt lo tagliò. Esatto. E gli americani fecero questo nuovo verbo che si chiamava to bobbit, bobbittare. Esatto, andava bene. Allora, nell'agosto del 97, quindi solo 10 anni fa, quest'altra sentenza degli ermellini. Se il capo ufficio dimostra un sentimento profondo e sincero nei confronti della segretaria, non può essere accusato di molestie sessuali sul lavoro, anche se la invita a cena e tenta di baciarla. Nel gennaio del 98... le lacrime di una donna violentata possono diventare un elemento che inchioda l'uomo che ha abusato di lei e valere come elemento probatorio, idoneo a garantire la sincerità delle dichiarazioni della parte offesa. Se non piangete, siete voi le violentatrici. Esatto, quindi ricordate, lacrima facile. Nel giugno del 1998, qualche mese dopo dunque, invece esce quest'altra bella sentenza che, insomma, in una qualche maniera li riabilita, ecco, mettiamo così. La guancia di una donna non è una zona erogena, ma baciarla senza il consenso dell'interessata ha tutte le caratteristiche dell'atto sessuale. Si sono riabilitati nel 98, ma nel 99 immediatamente sono tornati a febbraio, ad essere quelli di prima, a febbraio. Non è passato neanche un anno. E che la Cassazione sosteneva appunto che è impossibile commettere violenza carnale su una ragazza che indossa i jeans. Così la Cassazione assolve l'istruttore di scuola guida condannato per stupro in primo e in secondo grado. Secondo la Cassazione, la mancanza di segni di colluttazione tra i due sarebbe la ulteriore prova che la ragazza non ha opposto resistenza, tanto più che dopo il rapporto si era rimessa alla guida dell'autovettura insieme al suo stupratore. Ora, chissà se si era rimessa ai jeans, vabbè, questo non lo so, è un dettaglio. Probabilmente. Nell'aprile del 99 ancora un'altra bella. La Corte afferma che violentare una donna incinta al settimo mese non configura una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale. Non so, anche pure sul lettino mentre partorisce, chi lo sa. Ed in più si afferma che è anche possibile applicare al violentatore la diminuzione della pena minima per attenuanti generiche, perché il caso può anche essere ritenuto tra quelli di minore gravità. Ora, non si capisce la minore gravità, per quale motivo si applica a una donna che c'ha una panza tanto. Vabbè, lo ha fatto per amore. Per amore, esatto. Oh, nell'ottobre del 99, andiamo un po' meglio. Secondo la Cassazione sono sufficienti 2 violentatori per fare scattare l'aggravante della violenza sessuale compiuta dal branco. Uh-huh. E qui già ci siamo. Nel dicembre del 99 non ha diritto a sconti di pena il violentatore che non riesce a congiungersi carnalmente con la vittima per la resistenza che questa gli oppone. Pure, no? Cioè quella magari la sdrubbiata di botte, non è riuscita a violentarla, va bene. Comunque... Nel febbraio del 2001, la presbiopia avanza, eh? Nel febbraio del 2001 la Cassazione stabilisce che la palpata ai seni è violenza sessuale al pari di tutti gli altri atti connotati da repentinità e imprevedibilità posti in essere da chi intende, agendo all'improvviso, vincere la resistenza delle vittime. La condanna riguardava un impiegato di un istituto tecnico che toccava le allieve. Senti un po'. E nel novembre del 2001 i giudici ribadiscono che la circostanza che una donna indossi i jeans non è da sola sufficiente ad escludere il reato di violenza sessuale, specie se la paura della vittima di subire altre violenze da parte dell'assalitore, tipo che l'ammazza, no, tanto per dirne una, determina la possibilità di sfilare più facilmente i pantaloni. Nel dicembre del 2002, più si va avanti e più migliorano. Nel dicembre del 2002 il fatto che una donna sia disinvolta e disponibile all'approccio amicale non può costituire motivo per concedere all'uomo che l'ha violentata l'attenuante e la riduzione di pena prevista per i fatti di minore gravità. Nel novembre del 2005, invece, nel caso riguardante due uomini, la Cassazione sentenziò che la palpatina sui pantaloni di una persona configura il reato di violenza sessuale se chi la riceve non è consenziente. Viva la Dea. Nel febbraio del 2006 la Cassazione decide, e qui è una chicca veramente, una pietra miliare nel cammino della nostra giurisprudenza, la Cassazione decide che una 14enne non può avere subito violenza dal proprio patrigno perché non illibata e perché, dato che ha avuto delle esperienze, si ritiene in grado di dominare un rapporto del genere. Quindi una ragazzina di 14 anni, minorenne, rispetto a chi esercita la patria potestà, rispetto a lei, e che quindi ha un potere notevole, è in grado di dominare quel tipo di rapporto. Ma perfetto. Pensa un po', la ragazzina, vabbè. Aprile 2006, se l'ambiente nel quale viene commesso è degradato, nel quale viene commesso lo stupro, il reato di stupro, anche se su minore, è considerato meno grave, è chiaro? Quindi dallo scivolone alla merda, scusate. Così ha deciso la Corte d'Appello di Roma, che ha concesso le attenuanti generiche, applicando anche uno sconto di pena, a due imputati accusati di aver ripetutamente violentato una ragazzina prima e dopo il compimento del suo 14° anno d'età. Con questa concludiamo questa prima parte delle sentenze e poi vi parleremo di un altro aspetto ancora, ma volevo dire, mandateci un messaggio, diteci qualcosa, scegliete voi la sentenza più carina, va bene? E adesso un altro pezzo musicale che la nostra Mara sceglierà. Even over stony ground, I have to follow my heart. The way might not be yours. Allora, erano nuovamente le Chicca la Luna, che per noi sono una pietra miliare, mettiamola così. Il pezzo era No Compromise, cioè non compromessi, e su questo noi continuiamo a dire che è, diciamo, la nostra linea di condotta. Non vogliamo accettare nessun tipo di compromesso sui corpi delle donne. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, che è la trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Siete sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle 17. Tutti i martedì siete con noi. Vi ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo chi ci ascolta via internet e ci farebbe molto piacere sapere da quale città ci state ascoltando, se in questo momento ci state ascoltando e non state a guardare la partita. Se invece siete a Roma o dintorni, gradiremmo sapere da che zona e come è la qualità del segnale. E per tutto il resto potete utilizzare anche il numero del cellulare per gli SMS 338-4146-682. Adesso riprendiamo con una breve storia di un altro aspetto molto carino, che si chiama lo ius corrigendi, cioè il potere di correzione e di disciplina dei capi famiglia. E di questa cosa se ne è occupata direttamente Rosina. Che è una capa famiglia, lei e la sua cagnetta. Io l'avevo detto. E quindi niente, ve ne parlerà lei. Allora, in realtà il nostro modello sociale si basa, come dire, i diritti della nostra società si basano sui diritti del maschio bianco, adulto e lavoratore. Sì, tutti gli altri bianco occidentale, ecco, e fallocentrico. Dunque, lo ius corrigendi, appunto, è il potere di correzione e disciplina dell'autorità massima della famiglia, cioè il capo famiglia, per l'appunto. Quindi, accanto alla violenza sessuale, esiste un altro tipo di violenza che è meno clamorosa e viene perpetrata soprattutto ai danni di minori e di donne. Per il codice penale si tratta, appunto, di abuso di correzione o di disciplina e maltrattamenti in famiglia. La questione dell'abuso di correzione dipendeva dal fatto che nel codice civile, parte del diritto di famiglia, fino al 1975, il capo famiglia era uno solo, l'uomo, e aveva il potere di picchiare per fini correttivi e di disciplina chiunque si trovasse ad abitare presso il suo domicilio, nonna e cane compreso, di cui sopra. E certo, naturalmente, se doveva correggeva cioè, tutti. Comunque la mia canetta non ha mai preso neanche uno schiaffo. Perfetto, meno male. Il codice civile fu in effetti anch'esso elaborato e promulgato in epoca fascista e quindi, rimanendo in vigore fino al 1975, era in palese contrasto con la Costituzione, che invece sancisce la parità giuridica e morale dei coniugi. Beh, se il marito poteva picchiare la moglie, dove sta sta parità non si sa. Beh, forse anche la moglie doveva picchiare il marito, ma vabbè. Nel 75, quando fu messo in discussione il reato di adulterio e la giustificazione giuridica del delitto di onore per gli uomini che dicevano di essere stati traditi, cioè gli uomini ammazzavano le donne e i tribunali li assolvevano o neppure li processavano perché erano ritenuti in stato di legittima difesa, quindi avevano il diritto di ammazzare per difendere il proprio onore, come ai tempi dei duelli. Quindi diciamo, dicevamo, nel 1975 fu introdotto il nuovo diritto di famiglia, ma tuttavia rimasero in vita alcuni articoli del codice penale che supportavano quelli cambiati dal codice civile. E cioè continuarono ad esistere tutti quei riferimenti agli abusi dei mezzi di correzione e di disciplina, legittimando di fatto l'uso degli stessi. La pena stabilita si misurava in anni solo in caso di morte del parente corretto e disciplinato. Non so se mi spiego. In caso invece di una lesione, dalla quale può derivare anche una malattia del corpo, la pena oscillava dai 6 mesi all'anno circa. Cioè, la non chiarezza degli articoli del codice penale, di fatto, consentiva moralmente l'uso di violenza domestica, consumata ovviamente sulle donne a difesa dei valori della famiglia. In questo caso si fa esplicito riferimento alla querela da parte della persona offesa, cioè è la donna picchiata a dover denunciare il marito, esponendosi ad ogni forma di ritorsione perché generalmente vive sotto il suo stesso tetto. Soltanto dopo il marzo del 2001, con una legge, si è fatto esplicito riferimento all'allontanamento da casa del parente dal quale si temono gravi violenze fisiche. Forse le donne però non sempre fanno in tempo a chiedere al giudice l'allontanamento del marito, generalmente muoiono prima. Sì, ci sono state quella serie di trasmissioni praticamente a notte fonda sui delitti da parte degli uomini su delle donne, de mogli o ex mogli o partner o ex partner, e beh, insomma, per chi ne ha vista qualcuna mi sembravano molto eloquenti, no? Dove si vedeva che era proprio un accanimento. È un accanimento, quello che viene chiamato lo stalking, no? Sì. Cioè che è quindi proprio la persecuzione, ed è un altro degli elementi. Nelle case per non subire violenza le donne fanno proprio riferimento all'accanimento e alla persecuzione da parte dei mariti e dei partner. Oh, anche in questi casi la Cassazione continua a scatenarsi in Italia. Nel dicembre del 2006 ha assolto in pieno un uomo. Questa lo leggo io. La vuoi leggere tu? Certo. Allora, nel dicembre del 2006 la Cassazione assolve in pieno un uomo che picchiava la moglie. Ora, sentite bene la motivazione, perché questa è una vera e propria chicca. La motivazione è che alla base dei litigi sfociati in violenza ci sia la religione praticata dalla donna e impartita quindi ai figli, oltre al fatto che il marito tradiva la moglie, ma, secondo la Cassazione, la donna aveva accettato il tradimento. Quindi per la donna, ammesso che, cioè voglio dire, a me i testimoni di Geova, lei era una testimone di Geova, non è che godano per me una di grande simpatia, però dire a tutto questo che non c'è più neanche libertà di opinione in seno alla famiglia mi sembra di una gravità estrema. Del resto la libertà in seno alla famiglia non c'è mai stata, quindi vabbè, questo noi lo stiamo ripetendo fino all'estenuazione nostra. Senti quest'altra, vai, questa è recentissima, a febbraio del 2007 la Cassazione non riconosce nessuna aggravante per chi alza le mani sulla propria compagna, non moglie, compagna, perché appunto la sua compagna, la propria compagna, è soltanto una convivente, ovvero non è legata dal vincolo sacro o profano del matrimonio, mi sembra chiaro. E con questo abbiamo fatto proprio una panoramica. Quindi dico a parte, come dire, pax pure, cioè uomini, picchiate le vostre compagne, ma dico pure donne, ma picchiateli proprio i vostri compagni, così almeno gli rendete la pariglia. E con questo vorremmo concludere dicendo che al centro di tutta questa faccenda c'è sempre appunto la violenza sulle donne, il fatto che le donne vengano dominate malamente dagli uomini, che serva tutto questo al patriarcato, che c'è un disegno sotto che è anche economico. E sappiamo, abbiamo già detto in altre occasioni, che la famiglia è uno dei oggi, a tutt'oggi, è un ammortizzatore sociale, lo sappiamo bene, certo. E quindi è bene che la donna resti là, ma anche altre forme di convivenza, ed è inutile che vadano a sbandierare, dico e quant'altro, mi sembra che non portino da nessun'altra parte se non allo stesso tipo di natura, no? Natura della famiglia è una natura da evitare. E adesso Mara, che ci sta guardando e che ringraziamo ancora, manda un altro pezzo e poi la sigla finale. E grazie. Wow.